se seguimi i concetti solo quando ti dispiego. Vivi alla lontana vedendo il mondo dal di dietro. Tutto inizia un nome ma non chiamarlo Pietro. Dai molto, considera che poi non torna indietro. Facile pensare che tutto ha semplicità. Inventa la tua storia in qualche cosa che non ci sarà. Non vivere d'espediente, è inutile essere un pascià. Quando sarà il momento è da solo che nascerà. Non pensare alle droghe, alle troie, al modello. Prendi tutto come viene, il mondo è bello galopparlo. Pensa all'amore in colore bianco come un cavallo. Con le redini in mano sarai in grado di domarlo. È vero, la vita è strana, pensala come una guerra. Tra le armi migliori pensa solo a chi la ferra. Vivile come un fiore che sta in mezzo a una serra. Se la prendi dalla lama è logico che ti accoltella. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio. Al mazzo di carte perché sei un concorrente. Giochi contro l'amore ma tu hai la carta vincente. Se vuole fotterti lo farei tu sicuramente. Credimi, nella vita non si fa niente per niente. Il mondo è un cerchio in un segmento equivalente. Tutto passivo che lo perderesti sicuramente. Credi che tutto è inutile ma forse importante. Anche con le Nike avresti un abito elegante. È perfettamente tutto vario, incredibilmente variabile come il clima di gennaio. Basato tutto sull'aspetto in quanto gramo. Non dai principi che in fondo non li spettiamo. Sostengo che è crudele come la demonia. È crudella, non fotti contro me, sei K.O. A volte la sua oscurità la gente la spaventa. Bastardi non si nasce ma lo si diventa. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio. Considerazione, trovo gusto nel trovarlo. Più spensieratezza, servirebbe solo farlo. Vuoi risposte serie, non è il caso domandarlo. Il mondo perfetto basterebbe consolidarlo. Perfezioni inesistente come un punto nello spazio. Inarrestabile nel malessere, in un divorzio. Una palla che nel suo bene incontra il suo male. Se è così, beh, tanto vale rischiare. Considera il male come un prospetto surreale. Se non soffri, non potresti imparare. Come la morte naturale in un discorso generale. Banale come l'ossigeno che serve a respirare. Ragiona col tuo essere, non in forma collettiva. Pensa a questa canzone in formula correttiva. Non come un horror o una scena cattiva. Il beneficio personale in una battaglia riuscita. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio. E allora seguimi in ogni singolo dettaglio. Accecami come la luce con il suo avvaglio. Vivimi come la tua vita è lo sbaraglio. Feriscimi come la ferita in quanto taglio.